adesso il QRM che c'è è una cosa allucinante, è una cosa allucinante, guarda. La propagation è QRM a 1000 c'è stasera anche. avete sollevato. Sì, sta dicendo che lui è al mare. Sì, Salvatore, dai, treno. La cosa un po' precaria qua, dai Salvatore, non so se tu ti trovi in BM o compagnia bella, puoi darmi conferma, Salvatore. Sull'11 Falchè, Antonello, buonasera. No, stavo dicendo a Grotte di passare sull'11 per non disturbarvi. Così mi squatteri a me, No, no, tranquillo, sono con la macchina. Ah, che parole, ciao, Antonio, ben sentito. Io, buonasera a tutti. Salute per la tua 50 QRA familiare. Ti ringrazio, anche a te. Cava veloce. Antonello. Sì, Antonello che sta passando sull'11 con Grotes. Che noi dobbiamo passare o sono loro per i fatti loro? No, lo sono loro per i fatti loro perché le deve dire dove abita il suo QTH, diciamo. Positivo è Caparoglio, tu prendi per lì e vai dritto per là e arrivi subito. No, oppure prenderanno la sua QTH di Antonello, dai, le prenderanno da lì, K de Roche. Ah, si rola, anche un biribiri, biribiri, che ma ti ritiri di lì. Attento l'amico di Lecce se si è ancora in ascolto. Chi è? È stato un break, non lo so. Dio Pio in mezzo al QRM, in mezzo alla Macedonia, lei. Beh, vieni avanti, forse era spostato il canale, vieni avanti. Mamma mia, che un brucio, cazzo, mi ha girato le palle. Baraguro che poi è l'importante, e anche Baraguro Gigi che sta mettendo l'importante. Assorbete. E ci hanno fatto. No, c'era uno che col cazzo sorveglia di merda, scusa la frase, ma ce l'ha mandato a Franco Assorbete. Ah, portate, signor. Ma c'è una portantina quella. Ah, se senti lui, cosa portantina, vai tranquillo, ci sono i soliti bimbi di propagazione, non c'è importante. È tutto pulito, sereno e tranquillo. Ciao a tutti, buonasera, mi buona volla, ho terminato. Hai fatto così, è andato via, trova a vedere questa cosa che c'è qua, se se ne è già andato, e allora io sono qua, cambio. Positivo, il K di Roger, in compagnia di Bulldozer, Gino Vulcano, Antonio Grotte, Cipollina, chi più ne ha più ne metta, vai perché vuoi Claudio. È un'altra roba, questa è la battezzata, tu l'hai battezzata Cipollina, eh? Eh? Cipollina? Va bene, ciao a tutti i circolari allora, eh? Io saluto Cipollone, ma ci vediamo Bulldozer. Già finito le maniere, appartendici. Ma faccio ancora bagnato, che c'è un problema? Mi sono cantato senza bagnato. Allora sei nervoso, eh. Mamma mia, se tu non mangi ti sale il corazon. Ma se stiamo tornando subito, abbiamo lasciato il bambino sul fondo. Lucie, ai ai ai. Ciao Massimiliano, ho una fortunata anch'io in Piazza Mazzotti per la mania. I cani che non si mangiano tutti i gatti. Che schifo che è, mamma mia, mai mi sono andato in te così, quando ero ragazzino andavo alla Sagra del Pesce a Porto Torres, ma quando ero ragazzino poi manco più a quello sono andato, questa cosa che tu ti toccano, tu rimani, bocciano i quadri, bucci che mamma mia. No, la bocci poi di te un naso, capito, si fuma una sigaretta, tranquillo e poi ti danno una giara, vai, va. Casa sì, tu o in macchina sì. Perché? Massimiliano, ma sei in macchina o a casa? Sono in macchina, Gigi! A parole, perché ti tipo passo passo qua? Sono dentro sasso, mi dai! Un secondo al cielo, mi faccio un compagno di cammino, va! Romero, da me è Santiago 8, il tuo gatto di bruscio. No, è propagazione, dai, non vi preoccupate. No, non ce l'hai portati, altrimenti l'avrei registrata tranquillamente. Tutto sotto controllo, non vi preoccupate. Ciao Gabi, buonasera, ben ascoltato, eh. Buonasera a tutti. tutti. E beh, cosa state facendo? Ciao Gabriele, per aver sentito. Ciao, Falchè. E cosa stiamo facendo lui, Gabriele? Ho finito adesso di mangiare, c'è mio fratello. C'è che è andato. Ma al solito giro, non c'è trovato. E niente, sono qua a fare due chiacchiere, come sempre. E poi a nanna, perché domani ci aspetta ancora lavoro, domani venerdì e anche sabato mattina. E poi 2-3 giorni di riposino e poi si riprende normalmente come se niente fosse, capito? Questo è il programma settimanale, fine settimana, inizio settimana. E le ferie a settembre allora? Sì, io a settembre, ma quasi ogni anno le faccio a settembre, è difficile che prima intanto i 2-3 giorni di Ferragosto li faccio sempre, che sono quelli praticamente festivi. Però ho sempre preso a settembre perché non mi piace il caos, a me quando esco devo trovare tutto aperto, questa cosa lì, che sia tutto chiuso, no, non mi va, e quindi mi viene un po' la paranoia. E allora mentre gli altri lavorano, Dio Claudio si fa le ferie, andrò dalla prima settimana di settembre sino alla fine, adesso vediamo. O me le rifido, me ne lascio qualche settimana a dicembre, anche adesso vediamo lei. E comunque settembre dovrebbe fare belle giornate, visto che agosto ha fatto schifo. E vabbè, settembre, se mi concede qualche giorno per andare a farmi qualche bella passeggiatina al mare, mi va bene, se no non me la fotti nulla mio, ho solo bisogno di riposare, di staccare un po' la spina e basta. Mi va bene anche starmene a Sassari, a casa, a farmi qualcosa che c'ho da fare a casa, o a farmi tutte le finestre, quindi non mi preoccupo su quello. Va benissimo lo stesso, l'importante è staccare un po' la spina dal lavoro che è stato quest'anno abbastanza stressante, perlomeno da parte mia. Ok, ciao Luigi Vulcano, buonasera anche a te, Antonio Falchetto, Grotte, Antonello, che risento sull'11, mi sono Mazzelli, va bene. E avanti Gigi Vulcano. Positivo Claudio, dai. E qua siamo, dai. E no, ho cambiato radio, dai, ho messo un altro e spero che vada meglio questo. E invece ascolto anche sì, ho 3 watt, no, non ci sono problemi, anche con 1,5 watt, lo sai, abbiamo già fatto la prova, io da questo ti tiro benissimo, bene, ottimamente, senza nessun problema lui. Con questo chiaramente ti ascolto fortissimo, io sto andando sempre con il giocattolino, +3, solito supplemento, e quindi niente, per me stai arrivando benissimo. Caparugia, scusate. Sì, avanti. Il Grotte è arrivato a Ussi, scende dalla BM e sta andando a mantenere promesse, dai. Cioè, hai portato lo zucchero filato a Patrizia. Cappa, scusatemi se riprendo io, ben sentito, Sparviero. Eia. Ciao Policina, beh, questo Antonio ha una parola veramente grande, complimenti veramente, hai fatto una cosa giusta, perché altrimenti non si sa mai che poi, sai, le voglie sono tante, i piaceri sono pochi. Mi senti adesso, Fabia? Io ti sento, e se non ti sento io vuol dire c'è una radio sorda, sei fondo scala qua, sei fondo scala, non ci sono problemi, anche se sia Ussi, sia davanti a me, io tengo tutto sotto controllo. No, perché involontariamente il Grotte aveva spento il baracchino. Ascolta un attimo, adesso arriviamo nel cucchia di Barracuda e magari riprendiamo tutto in sala. Va bene, d'accordo. Allora, chi aspetta? Antonio Falchetto, riprendi. Positivo e Caparogero, Polici, siamo qua. Siamo in attesa che ci mandi via aerea qualche po' di zucchero filato, eh? Dì il numero la prossima volta per parlare, eh? Canada. Oh, io vi saluto, là che devo riscendere qua, che se ce ne vanno lo mangiamo adesso, se no ce ne andiamo a Tattamura, rimaniamo cornetto e via. Oh, Massimiliano, cammino con te. Venga. Quando è che vai in ferie? C'è in ferie? Allora, per domani e poi una settimana, allora, il 20 giorni altre. Vabbè, allora non c'è problema, non lo disturbo. No, è un problema di TV, TV. Ma deve venire qua, dai. Vado a prenderlo e viene qua. Va bene, già mi metto d'accordo con lui allora. Ciao Gavino, ciao Massimiliano, buona cena, buon tutto. E mi raccomando, con la bocchetta Massimiliano. Non fai come se fai tu con Cucciari, con la bocchetta. Grazie, un saluto a tutti. E buon proseguimento di serata. Ciao. Ciao Gabino, ciao Bulldozer, mi raccomando una bocchetta. E da anche da parte mia, Gabino. Allora, ma non la brutta invece. E la faccia di manca, vino e bruto, mi. Guarda, va fuori, dai, continuate, la ci sentiamo, là, ciao. Ciao, Massimiliano, ciao. Ma ti ho sentito il cibo che ho fatto, salsiccia, stavo già, ero già preoccupato, ma non è che sono appese di nuovo. Lo sai che noi assaggiamo prima di diventare tutta, eh? No, tu lo sai benissimo, Claudio, che le salsicce ci fanno a tempo fresco a Natale, prima di Natale. Faccio sempre la settimana prima di Natale o due settimane prima di Natale. E se fosse la settimana è alla pazzina, no, se buttine già subito. Sicuramente infatti era sì, il periodo di Natale, quando sono sceso io, ho visto un attimo di volare, le tappicchiati. Ti ho sto profumino, mamma mia. Hai detto, io c'è, no, rimane qua, non fa niente. È già fumicata, già sta asciugando. Solo se la pensava che lo dici. E la pensava. Ah. Ma boh. È bella, veramente. Bella, bella. Quasi ne faremo una amichizza, dai. Però lo vuoi, rimano lì. E si fa fuoco acceso lui, no? Avremo visto, è coordinato e tratte, ma in 90 muoio, e la fa di un'altra, boom, andati. Mi andava bene. A pietra 4 sopra la graviglia, fa la prostruire appena. Sì, mi sembra che 4 ce l'abbiamo mangiate, non mi ricordo lo chiedo. Con Franco forse, no? Buona e poi sera. Buonasera, ben ascoltato. A Luca che non piaceva, gli piaceva quella di Murru. Sì. Vabbè. Buonasera anche a lei. Vabbè, i gusti sono gusti, lui. Non c'è niente da fare. Comunque. Buona. Poi tu la fai un buon condimento e tutto, quindi non ci sono problemi. Avanti, buon dottore, cioè buonasera. Buonasera Sassari, ben ascoltati. E niente, ditemi. E cosa dobbiamo dire? Stiamo parlando di mangiare, niente di particolare. Mangiare e bere acqua. Allora Sandri, questo è un altro apparato, se per i miei, dei baracchini miei. Come lo senti questo? Chiaro, limpido, recuaro o c'è qualcosa? Sempre normale, sempre il microfono normale suo, Cade dentro da che gira la rabbas. Ciao, Sandro. Ben scucciato, la pacca sulla spalla. Vedo la cadenza, vado, Sandro. Ehi, ciao, Falke, pure a te, buonasera. Gigi, cosa devo dire? Niente, non ti devo dire niente, va bene. Ci va bene, ti sento bene. Altro non ti posso dire. Posso dire solo una cosa, sono due fatti senza niente. Sono due fatti di portante bianca senza niente. La colonnina di città che mi ha dato. No, io lo stavo usando stasera al 48. Ma gira che è una meraviglia. Gira una volta e rimango. Ha messo la colonnina nuova lui, c'era la colonnina in corto, ecco perché ogni tanto si motiva, sì, ho comprato. Chiaro, mentre la vedete, ragazzi, una colonia di chi si della Fayette, non ti già. I si rettangolari, 18 euro me l'ha fatta pagare, costava 20. Ah, quella è terra, hai messo. E ce l'avevo già, ma era vecchia, era andata in corto. Ogni tanto si interrompeva, capito? La sono andato stasera, l'ho comprata nuova. Lì ci vuole la colonia esterna per forza. Ma io ci do tutte esterne con me. Anche qua l'MS200 ce l'ho lo stesso esterna. Però quello là non mi piaceva il parlascolta. Praticamente come sentivo la voce, la taglia gracchiante. Ma adesso invece è molto bella la modulazione. Un attimo, mi squilla, un attimo. Ehi, a far che siamo qua. No, ti ho detto, l'ho provato stasera a vedere come mi ascoltavo, andava benissimo. Però senza neanche inserire il passare la calamita, così normale. Una lavorazione molto, molto bella, molto grossa, bella, bella, bella modulazione. Positivo, no, questo diciamo è normale adesso. Però come così fatto su tutto il canale questo, capito? Voglio dire, puoi andare così con questa radio così qua e puoi mettere anche il microfono a tavola qua. Perché non gliel'ho messo il microfono a tavola stasera? L'ho usato col microfono normale e anche con quello amplificato, capito? Ma io la radio 98 ce l'ho esclusivamente per usarlo con lei, come usarlo normale non mi interessa. Usano normale, mi uso l'MS200, la KV23 e tutte le altre baracchine. Quello è proprio per usare con l'eco, e quando lo voglio usare con l'eco lo passo la calamita e lo uso. Ma adesso non è il caso. Non è ora di far brutto. E basta, tutto qua, proprio il resto. Lo sai che oramai ho scelto questo io a parlare, no? Perciò non ci stanno problemi. Va più che bene. Ottimo per la truppa. Positivo, dai, positivo il Caparroce. Devo quale posso mettere anche un'altra cosa, ma no, non gliela metto. C'ho quella scatoletta esterna, ma non gliela metto. No, no, no. Io su 48 c'ho il suo lineare, già lo sai. Ed è già tarato, praticamente io non lo tocco mai. Mai, lo accendo e lui le passo la caramita e viaggia alla grande. Regolazione fatte a 3 di portante muta e poi zazza di picco. Tu immaginate che porta con l'amplificatore a 190-195 watt modulati, perciò è convinta la gente. Quelle radio lì modificate, Colt, più bassa la potenza, più picco di modulazione hanno e più lavora bene l'amplificatore. Tu più sollevi la potenza, più distorci, la modulazione non va bene, l'eco non gira bene. E vabbè, gaiette, comunque io ce l'ho così come hai regolato tu, lo lascio stare così. Non chiedo controlli, non mi interessa fare nessuno, mi interessa solo che la radio funzioni come deve funzionare, va bene, basta. Sì, sì. No, no, questa è quella che io riesco a camuffare, fare anche la voce con questa. Così è. No, io ce l'ho spenta. Va bene, va bene. Vanno bene quelle della 48. Vanno troppo bene. Io oramai lo lascio lì. Quando mi serve lo accendo. E rulla. Quando non mi serve, te l'ho detto. Modulo con questo, oltre a più 3, con gli altri microfoni che ho. E se no, giro la sedia direttamente e passo col K, non ci sono problemi. Positivo, dai. Positivo, ma si è arrivato Sandro, poi c'è Falchetto che ha il telefono e noi ci siamo allora. Ehi, Antonio Grode e Ossi d'Antonello, ma già entrando lì ha detto, sono spostati sull'11, ha detto che già riprendono da lì. Non c'è problema, se non l'ho rilanciato non riprendo, non so cosa sta facendo. Chiamo la tua vedere. No, Sandro, è come me, mio, a volte dentro, sparisco, quindi me ne alzo e vado a fare altro, capito? E poi torno, capito? Anche io faccio a volte così, quando stanno parlando un po' alla lunga, allora mi ripiso, vado a bere, vado a fare altre cose, una cosa l'altra, poi mi rilanciano e sono lontano dall'apparato. E vabbè, ma lui già ce l'ha avanti, quindi non è che sia passare molto. Io se mi alzo e chiudo la porta non sento più niente. Va bene, proprio. E oggi lo vedi, in zona o Matteo, quando mai finire? Andato me ne sono da oggi. Stasera, oggi ho un po' scoppiato qua in zona, e ho iniziato stamattina con quel rimorchio del conforama del picco di ieri, e l'ho finita stamattina alle 8, sono per le 6 e mezza lì, e l'ho finito alle 8 e 10, ho finito quel rimorchio, poi da lì ne ho preso uno carico d'acqua e ho scaricato la SD che c'è lì a Bretagnetta, avevo un po' di pedale lì, poi sono andato alla metro, sono andato al Carrefour, ne avevo 8 pedali per il Carrefour, 10 avevo me la metto di acqua da scaricare, e me sono andato all'1-10 dal Carrefour di disastri. Lì poi sono andato in fretta, ho cacciato con il rimorchio, sono andato a togliere uno che se ne andavano via all'1:30, lì dove c'era 2M costruzioni da Mario Fotti, si buon'anima che è morto pure, poveraccio. A prendere un rimorchio l'ho portato dove lavora Massimiliano, infatti c'era Massimiliano lì con lo scavatore, c'era quella specie di palameccanica enorme, quella che hai visto in corso c'era, e più il rullo, tutto quanto c'era, tutti quei mezzi che c'hanno loro, c'erano lì facendo quella strada. Ah, quel di 9,5 c'era? È positivo. Bella bestia quella macchina. No, bella bestia, 4 metri di cabina, non lo so più. Gli aeroglifici. Vabbè. No, niente, anch'io ho terminato a mezzogiorno, all'1:15, stavo per rientrarmi, invece ho telefonata. Una riunione così di due chiacchiere all'impianto di socio, quindi ci sono andato bene di tre. Capito? Poi c'eravamo anche dentro, quindi non ho fatto altro che arrivare a casa, un po' come, sono uscito, sono entrato con le 6:30. Una doccia, dove ero le 8, anche al mio fratello. Siamo poco fa. E niente. Infatti volevamo uscire, ma non andare dopo. Domani venerdì chiudo la settimana, poi al limite o usciamo domani sera o sabato, no, fare una passeggiata, non c'è qualcosa e basta, tutto qua. Poi si vedrà sabato e domenica cosa faccio, perché sabato mattina devo per forza uscire, c'ho delle cose da fare, devo vedere alcune misure e lavori che stanno programmando per dopo fare il nostro, devo essere sicuro che siano quelle, perché me le hanno prese gli altri, io non mi fido mai. E domenica sono reperibile, quindi posso stare anche in giro, non ci sono problemi. Non c'è problema. Per roba di Nocchia, roba di Fur, Maria Goso, Giuseppe Leoncino Bari. No, in Molina, ecco. Qui dal segnale più basso, e poi va più forte qua. Chi ne vuole entrare avanti? Non so se sta facendo l'amore, ma l'amore al telefono stai facendo tu. No. Abbiamo la musica western, la sì. La musica western, tu dove vai i cavalli o vai i sceriffi? Sempre in pieno sul ippodromo. No, a Maracchino è. No, non sento niente, musica western. Che Maracchino è, una cosa non ce ne guarda, io sono molto. Devo dire, stantio, però da quando ho questo baracchino, io modulo sempre con questo 27, perché di una seriosità, no, senti, c'era Antonello sul canale 11, ho provato ad attaccare la 48 e come te che voi non esistiate, cioè completamente battimento zero, proprio niente. Ho attaccato questo, il palito, ha detto ma vai ancora, ho girato di nuovo sull'11 Fantomi, non si sente niente, nulla, è quarzato, capito? È quarzato di una silenziosità allucinante. Se c'è QRM, dice Vendeggia, ma se non è QRM, intendiamo canto. Buono, buono. Buono, così, così è bello. Lo so, lo so. Ma è la stessa cosa dell'MS200, qua. Sono molto selettive, ste radio vecchie della Fayette. Quarzato, veramente ad hoc. La KB23 ce ne va vita. È proprio, qua, io ci modulai nel grande 1978, dal 78 all'82, e poi sono partito in quarta con la vera radio, però mi ricordo che era una cosa allucinante. Ero lì in mezzo, praticamente nel centro storico, c'avevo a Giampaolo Silvestro, alla fine via Torre Sacchi. Gabino Carciofo era attaccato a me, Giampaolo RC2 che era a 500 metri da me, eravamo tutti uno attaccato all'altro, ma pigliavano i danti di chi si gol, più non ti dico mai, erano sempre tutti prendi, allora lo stacco di ignare, poi armato da un altro ignare io, perché davo un bel colpi ma non mi prendeva, non mi prendeva, manca misericordia. Bello così, vai Gigi. Porcali, in che hanno detto? Il 78 l'hai preso? Sì, sì, l'ho comprato nel 78 da Pinto e Scarpa in via Cavour, lui, questa, la gemella di questa, uguale, precisa, identica, è il Tanner più 2 da tavolo, perché lo vendeva lo stesso Pinto e Scarpa, Tanner più 2 e la Fayette KB23. L'alimentatore era un vecchio Sirtel, mi ricordo, da 10 ampere, che era uno dei più grandi che facevano, perché allora c'erano pochi alimentatori grossi. E l'avevo pagato 50.000 lire. Ma sai chi c'era? A noi l'autore ci rifaceva la manutenzione Arghizzo, mi pare si chiamava. Aspetta, era una traversa di via Nokia Mentola. All'angolo era di Arghizzo, può essere Arghizzo. All'angolo di via Tempio. Che faceva per no, però lui faceva per i video urbani, per la stradale, per il coso. Era all'altezza di no, via Tempio, lo sto dicendo, aiutami. All'angolo con piazza Salvatore Ruglio era, che poi ha fatto la radio, Radio Sassari. E mi pare si chiama Marchese, la stessa ce la faceva lui nel quel periodo lì, 78, 79, e c'era sino che sono andato via io nell'80, sino all'80, 81 poi sono andato via io, prima era 81, non era 81 sono andato via io. E ce li montava lui gli apparati, capito? Ce li montava lui e l'assistente ce li faceva tutta lui. E allora quando io ci passo sempre in quel coso lì, quando esco dall'ospedale da quei parcheggi, la via dei parcheggi, quando ne esci, non ci sono i parcheggi di fronte al pronto soccorso, quando ne esci tu dalla via dei parcheggi e giri a sinistra e vai in fondo per prenderti via Mendola, all'angolo dove c'è il semaforo, quello chi era? C'era uno lì, faceva quella roba lì. Anche tu, ti ho detto, piazza Salvatore Ruglio, all'angolo tra via Napoli e piazza Salvatore Ruglio, dove c'era Nino Tola, capito? A fianco a Nino Tola. No, dalla parte di allora, non dalla, scendendo da su, era a sinistra lì, non a destra, capito? A sinistra, è già lui, Arghito, cioè quello lì. Sì, sì, sì, cioè quello, era l'unico l'avevano buttato alla finestra. E comunque io in quell'anno comprai da Pinto Giascarpa la Fiesta KV 23 50.000 lire con Turner più 2 da tavolo, e non c'era per nessuno, e ancora oggi sta dimostrando di essere una dei più grandi baracchini al mondo per me, va. Ma veramente selettivo, non ha nulla, ha lo scotch, lo volume di canale blu, e uno Smith piccolino che ci vuole Santo Lazzaro per vederlo, molto preciso, però c'è una recensione, una trasmissione allucinante. Ma è Falchetto! Però non ci parlavo lì, non parlavamo lì, capito? ma rimangono sempre nel corazon, vai Gigino. Positivo, e quello era R1, capito? Quello era, voleva dire l'emozione 1, era R1, capito? Quando chiamo la centrale chiamo R1, attenzione centrale chiamo R1, ero io, R1 ero io, capito? Recarsi via via Principessa Maria numero 8, c'è la macchina sul passo Carrabbia che impedisce, aveva ricevuto e partivamo, capito? A rimuovere la macchina, capito? Era sempre quella radio che in continuazione cerchiamo una parte all'altra, capito? E ma allora erano diverse anche le frequenze lì. Adesso trasmettono in UHF, le radio sono tutte criptate, anche loro si sono adeguati, comunque già si sentono ancora, non c'è problema. E attualmente ancora sono con la R, pare che siano sino a R8, R9, una cosa del genere, li chiamano ancora così, centrale R1, Guido Verponte, sì. Guarda, c'è il vigile sul posto, qua in via Totte che c'è il traccio al tram, vengo in Dubai. Non è molto operativa la sezione radio dei vigili urbani, molto operativa. Perché io non sto più ascoltando, ma prima i tempi che furono era già abbastanza adeguata, adesso sicuramente sarà molto di più. Comunque trasmettono in UHF. Va bene, d'accordo, ma è Antonio Grote, il Antonello, Manieri, Duque, l'ho filato a tutto andare, eh? La mazza viene varia, che... Mazza viene, lasciamoli fare. Ma c'è andata la rostita a Piazza Mazzotti, o fa che... Tanto potevi portare almeno a Tullio, tanto c'è un ringane che vuole mangiare chissà roba, perché non si accorgono di come operano con le mani, capito? No, ma neanche morto, ma neanche il cane, per carità. Lo mio sicuramente non li mangia, il mio è fatto grande a crocchette, e di macaburro di voce notte li mangia. E poi roba sana, per carità, non fa la gente andare a buttarsi a mangiare sui schifo che è tutto toccato con le mani, tutto per via, che schifo che è. No, non neanche a pensarci minimamente andare a mangiare quella porcheria lì. L'Ugariello è andato, ma mi ha detto no, non va a mangiare, ma per me una cosa stare in compagnia, un po' perché si muoce col cammi, mamma mia, una persona così pulita, così attenta a tutto che fa anche piacere, guarda, ma veramente proprio non c'è una minima cosa, una mamma mia. non si vuole, cappa. Vai Gigino. No, è Luca, avete le cose della salsiccia, no, è quella più leggera, più quella di Murro, io solo, esclusivamente quella di Murro. Era veramente dei fiorentini di Pinocchetto al Moro. quelle, se non si è abituate, è un casino, perché non si sentiva proprio l'odore tipo selvaggina, ma forte quando era sopra la graticola. Capito? Se poi a te non ti va quella carne non riesci a mangiarla, capito? Non riesci a mangiarla, perché quella è buona, è saporita, bisogna che uno ne abbia mangiato. Io sono andato in campagna e avevamo il bestiame, la mazzava, e siamo abituati a queste cinghiali, a volte quando le prendo, che me le danno, le mangio io, il cinghiale, si sente la selvaggina. Si sente, a te quella volta siamo andati dal trovatore, poi sono andato un giorno con Pinocchetto, io ho un'altra mangiata a Giovia. Sono andato un giorno con Pinocchetto, si è invitato una notte il Salvatore di Palmado là, a Cinghiale. Siamo andati, mi sembra, insieme, o no? Forse no, non c'è la Cinghiale, a volte siamo andati in formaggio marcio. Ma te la metti di Luca, di Rivemmi, questi di Roma, te la ricordi Clavier? Me la ricordo. Eravamo andati col volo, io, tu, Luca, ma non mi ricordo chi c'era altro. Eravamo in 5 in macchina. In 5 in macchina, da Salvatore, lì, mangiare il formaggio, le sciughe, andiamo a mangiare. Oh, ma questi, ah, mangia, ho già fatto un pezzo di tutti i buoni, tanto buono, mangia, che non muori. Allora, adesso guarda, è buono, non scorso, ma mangia quella roba che salta, no, non me ne procuri più, ah, vai da me. Vediamo in che me lo... E quando, se non c'è, guarda, se non c'è quello saltando non è buono, attenzione, deve saltare, deve essere quello saltando, allora è buono. Io, te lo credo che è buono, ce la fosse di quella roba. No, me ricordo la vaccina che avevamo fatto giù da te, quello già mi ricordo. Si è cantata la notte, esce Maria Grazia. Sfalte, adesso lo garage di Gigino. E la mia vista fuori, la vista alla galera, nel fuoco tutto andando, ce n'è 3-4 del mattino. Cantendi e... Dice Fiorentini Mariani, hanno tanto da 20-30 cm l'uno, una cosa allucinante, ma buono. E Luca era schizzeroso per il formaggio di birra, no? Inizialmente sì, alla bomba no, era cominciato a tracciare con la spianatina, avete già fatto la spianatina, io lo vorrei, no, guarda, guarda com'è, ah io, invece te dico di lo sai, non da molto, ma adesso, ma forse una decina d'anni fa, non di più, ma facciamo una decina, perché è stato un ragazzo già quasi di 17-18 anni, e non abbiamo mai mangiato melanzane questo qua, e io lo stavo facendo, sai, quella la grigliata, casa in mezzo alla carne, no, non riusciamo a cominciare a mangiare la melanzana, non abbiamo mai mangiato. Poi non sappia, ma se vuoi aggavare la buccia e va via intorno, no, la buccia nera, dice, ma questa se ne toglie e si mangia tutto. Tu vuoi, ma da ne è uscito, cazzo, si butta in campagna. E se non mai, una volta non ti ha fatto mai, non ha fatto mai merenzare in tutta la vita tua. Oi. No, beh, mia moglie la buccia la toglie perché non la può mangiare. Ma è una questione proprio perché non la può mangiare. Però le melanzane e arrosto si mangiano a buccia, non si fa imbucciare. Buffone dici, il gusto suo è quello. Diventerebbe una cosa non equipaggiata proprio al gusto, sicuramente. Io non ho mai mangiato anche la buccia, la verità. Io la melanzane mangio in tutti i modi, però ci deve essere la buccia, se no niente. Se no niente, ma guarda che la Salvatore noi è 2 anni che non ho il Volvo, 2 anni fa l'ho versato, io ho preso 2 smart, quindi cosa può essere, 3 anni fa non l'ho tenuta molto, mi sembra che se l'avevo 2 anni neanche, 2 anni l'ho tenuta, poi il primo volare era il Volvo, quella verde era la macchina, non era l'Audi, no, lui era il Volvo, mi pare. E non me lo ricordo adesso qua, se vuoi dire la verità, era una macchina che avevi comprato da poco, c'era in pochi giorni, mi ricordo, non me lo ricordo cosa c'era, ma adesso mi pare che forse Volvo era, non me lo ricordo della verità, però non è da poco, mi è da un bel, mi Claudia, era un bel, perché sarà un paio d'anni che siamo andati con Peruccetto, ci ha invitato, cazzo, la notte, beh, ci ha fatto un bel cazzo, quella c'è la frigo, le toglieva e metteva, siamo andati la notte, metteva sopra la graticola e poi la moglie ne ha fatto con, diciamo, l'aveva messa a macerare con l'aceto, col vino, non so come l'aveva fatta a macerare, l'aveva cucinata con una specie di sughetto, un po' di peperoncino, e ti dico, fatta di un coso, quella era ancora, era un'ottima, l'avevo fatta la macerare, e non c'era una notte, c'era il figlio di Alessandro e un altro ragazzo che l'avevano preso lì da lui stesso di Cinghiale, ci aveva invitato, malattia, ma aveva preso il fotogramma, ma non ce l'aveva ancora il figlio, e gli aveva già regalato il fucile. Scusa che mi sta bussando la porta, se prendo su. E avevano preso due cinghiali lì in campagna da loro stesso e ci ha evitato andare a mangiare la notte. Altro devo dire, avevamo dato un peruccetto, mi hanno mangiato la notte, cavolo. Eravamo io, peruccetto, e Salvatore, la moglie, questi, e il figlio con un altro cugino forse, che avevano cacciati loro, l'avevano ammazzati loro con la fucilata, questi due cinghiali. Ma non era morto, perché guarda, io ti faccio una... ti ricordo una cosa, stai attento. Allora, sicuramente è più di 2 anni, ma non di più, 2 anni e mezzo sarà. Perché io ho l'asmata e ce l'ho 1 anno e qualcosa, capito? Quindi l'ultima macchina era il Volvo, e questo mi ricordo, fai che siano 3 anni. Però voi siete andati subito dopo che siamo andati noi, attento, perché se ti ricordi, Salvatore aveva servito la carne in una cosa mia, e quella persona se n'era accorta, ed eravate andati o il mese dopo o 15 giorni, 20 giorni dopo. No, non l'ha servito, l'ha visto che lui ce l'aveva messo lì come sopra lì della cucina, c'era una specie di cucina rustica, e ce l'aveva appoggiato lì pronto per mettere, però non lo stava, però lui, sai che cazzo, ci ha buttato gli occhi ed era tutta un'altra parte, ma ci è rimasto talmente male coso Salvatore, capito, ci è rimasto malissimo quando, anche io quando lui ho visto che stava puntando lì, io me ne sono accorto che l'ho visto puntato, e mi ha detto, ma questa cosa che te l'ha data? È stato, non me l'ha data, è stato lì, non mi ricordo, e lui ha detto, te lo ricordo io, che te l'ha data Claudio quella lì, lui Salvatore dice, non mi ricordo, è vero. Perché mi hai telefonato addirittura, mi hai telefonato, e infatti avevo chiamato Salvatore, ho detto bravo, sì, Claudio, era lì, no, non ci ho neanche pensato, guarda, ed era subito, praticamente noi siamo andati una domenica, mi pare, o un sabato sera, una domenica sera, una bellissima giornata, mi ricordo, che era mia da te, in garage, alla Marlon Brando, gigante, allora non venire al contesto. E siamo partiti, eravamo a Baracchino, e io ho 20 problemi di caffè, e siamo andati da Salvatore Bobore, capito? Lì io gli ho lasciato quella cosa, dopo una settimana, 20 giorni, un mese, ci siete andati voi, tu e Pino, e si è accorto di quella cosa che ho lasciato io. Becco? Di estratto, aspetta, glielo facciamo entrare avanti il brecco. Farogger, dai, il Grodde da un altro QTH, qua col Barracuda, che ha mantenuto la promessa assolutamente, cioè non il Barracuda, il Grodde. E me la devi dare il radio però, Antonio Grodde, perché sei a fondo scala senza il radio, vuoi il tuo microfono, mio non mi piace, dai radio, dai aria. Il radio, guarda un attimino, ora. Ecco, adesso ci siamo. Troppo, va bene. Va bene, non toccare niente, lascialo la tua manetta questa cosa. Un attimo. Ok. Come sto, Claudio, come sto uscendo? Male, non ti intendo, solleva la voce, solleva. Muove aria, dai motore. Ok, scusate un attimo, eh. Ok. Ma non è che è andato anche Sandro il produttore di Aussi, no? Perché mi sembra Sandro, ok, aspetta un attimo, ok, sembra Sandro il produttore. Non lo so, io penso che sia Antonio Sandro siamo per modulazione. L'aveva voluto Antonio modulazione di Sandro. Dai aria però, non ti sento davvero, c'è un segnale fortissimo ma la radio è molto bassa, la radio deve uscire così, vedi come esce Claudio Spalviero, la devi far sentire, deve essere bella, devi sentirla. scusate. Oh, ok. Gigino, come sta uscendo secondo te? Già stai arrivando, dai, devi più o meno così come sto uscendo io devi uscire, capito? Vedi la voce come sta uscendo questa, come sta spingendo. Ok. Mi piace questo qui, questo qui non mi piace, capito? Parla come parli sempre, non mi piace questo qui. Parla come quando sei a Sassari, come parli. Ah, sì, non parlare diversamente, parla come parli a Sassari, che dice meglio la radio. E comunque sei bravo a capire le cose, dai Gigino, sei bravo, mi piace questa cosa. Ok. Non mi piace questo ok. Parla chiaro come fai a Sassari. No, già avevi capito chi ero, dai. Senti lo Sparviero. Vedi che ti sta spirando il telefono ogni tanto. Ciao Antonello Pomponio, buonasera, ben ascoltato, avanti. Poi è cominciato a rompermi le palle il mio parallelo, ho detto sì, dove stavo bene, è venuto un coso di tipo ansia, mi sono stato un'oretta fa, la verità, mi stavo ascoltando 5 minuti, poi sono entrato 2 secondi a salutare il coso su 21 a Giuseppe, che stava diventando un Alghero, e poi sono passato qua, e basta. Avanti, a 1-1 senza spingere. Sono contento, davvero? No, mi sembra di aver girato qualcosa, perché era contento, forse non l'ho sentito io poco fa. Era contento e stava entrando, era la maniera da piacere la pizza, quindi mi sa che avevi tirato qualche cosa almeno. Sono contento per lui, che ci abbia fatto, almeno dice, bisogna fare così, girati le palle per forse alle persone. Come vuol dire lavoro gratis di loro, bisogna andare a girare le palle come lo faccio io. Io ogni settimana il telefono e faccio quello che mi deve, quello che mi deve, e vedo che ottengo qualcosa, non per stare a fare finta di nulla, perché il lavoro quando si è fatto, quello arriva, pagato vuole. Certo che sì, Antonio. No, pensavo avesse ripreso, sono contento comunque, anche se ho recuperato quelle due lire, la vista animali. Sono contento lo stesso, almeno c'è qualcosa per fare agosto. Va bene, ok, sorvoliamo. Antonio Fache, apertami questa porta, ho le scale, si è caduto. Ecco Antonio Fache, dove è caduto le scale anche lui. Gigi, riprendi. Insomma, non lo vuoi passare a me il microfono, è la verità, cosa ti ho fatto? Niente, non rispondi al telefono, sei un cane morto. Perdonami, l'ho lasciato dove in macchina perché stavo prendendo la macchina e lo zucchero filato e l'ho lasciato giù. Vabbè, sappi che ti ho chiamato comunque, così vedi la chiamata. Avanti, Gigino Vulcano, riprendi, poi non c'è bisogno di rilanciare il microfono, se la fammi sempre tu, Gigino, riprendi, sovramodula. Positivo, positivo, ma almeno questo zucchero filato lo avete già mangiato, lo avete fatto, lo state preparando, non che fate di buono lo smite del guaracchino. Guarda, ti passo il padrone di casa, Tom. Vai, ascolta, già mangiato e digerito pure. È positivo, positivo. Ditemi una cosa, ma questa radio che stavo permesso è chiara e limpida o c'è qualcosa che non va bene, secondo voi? Ma secondo me sta uscendo bene, è la verità. Lui, se non ti dice niente allo Sparviero, tu la sai fare tutto come te, vai tranquillo. Positivo, dai, positivo, volevo capire se era buona come radio, però voglio vedere una cosa, riprendete che faccio, mi sposto di due canali e voglio fare un controllo con lo smetto, voglio vedere una cosa, continua, riprendi Clavie, non fai girare a Falchetto se c'è che l'abbiamo lasciato in parcheggio. Ma mi ha detto che stavo aprendo la porta, sicuramente è arrivato qualcuno, già riprendo da solo Falchetto. Non c'è bisogno di lanciare, lui è un falco, quindi sa che cosa deve fare. Quindi Antonio Bro, ma cosa hai fatto allora? Banana e lampone oppure limone e fragola? Com'è questo abbinamento appunto banana e limone, in modo tale che il limone tende a stringere, capito? E quindi la banana non entra più. Per cortesia, ma tu come una curiosità piuttosto, ma non avevi ospiti, cosa ti dai, tutti voi a casa? No, ma era mio fratello, ma era ospiti, non è prima di invitare gente a mangiare, era mio fratello, è rimasto un paio d'ore e poi è andato via. Non è prima di invitare niente a nessuno, no. Quanto già non venne per me, ci vedrà pure l'altro, ma abbiamo mai. Non è vero, guarda le persone generose come si comportano, che Pomponio ci sta invitando tutti per sabato prossimo, e poi sabato questo siamo tutti a casa di Pomponio, inutile che ci faccia venire ansia e diarrea, perché intanto siamo lì a mangiare gamberoni a casa sua. Sì, ma dille a Antonè qual è il menù, perché Simone ha detto che vuole prima i soldi, se no non ci fa entrare, vero Antonè? E per quello già sono andato a mettermi d'accordo ieri sera, ho buscato 4 brasiliane, quindi senza voci bisogna entrare, se no è finito lo scopo qua, È lo scopo vero e proprio, che ti diano in testa però. C'è lo spogliarello mio, non lo sapevi io tu. C'è lo spogliarello pure, ma non di Pomponio se non ne caccio gli occhi, mica io sono di stomaco debole. No, delle brasiliane. Hai visto quando ha tirato fuori la pancia pelosa? Basta ridare, mamma mia, ne stavo cacciando anche il cardinale, ne stavo uscendo, cappello e tutto. Visto, è quello il cortisone, naso. Stavo crescendo nella parte sbagliata, potevano crescerti in testa. Lo so, purtroppo è così. Su, li ho presi, invece ne sono cresciuti più, visto, vai. Oi. Comunque se avete fame, vince la criminata giù a cosa, però il fumo dai roghi è vero, figura di Ocla. Mi sta arrivando il fumo della criminata di qua, lo zemino delle bistecche, fatte con la scopa, con la peperina in terra e il rastrello quello per raccogliere. Dai Antonio, che ti ha accennato, che mi fai vomitare, che schifo è. Non avrei mai ad una cosa del genere, lascia perdere. Ho detto stasera che quando ero ragazzino, ma forse per fame, forse per curiosità, andavo alla grigliata che si faceva allora giù in Piazza Colombo, anzi, per meglio dire, era iniziata in Piazza Garibaldi, poi l'hanno spostata in Piazza Colombo perché la pentola è diventata più grande, non si stava più. E quindi, ma sto parlando di un ragazzino, sì, 17 anni, adesso manco se mi pagano a prezzo loro ci andrei a manifestazioni del genere, ma stai scherzando, con tutte le malattie che ci sono, vado a mangiare con la carne, e chissà dove arriva, tutta toccata anche le mani, con le mani, presa a calci, calpestata, ma per favore lasciamo perdere, manco il cane, ma ne sa cosa. Se non dirà a me. Io ci sono andato solamente una volta per sbaglio e basta, da quella pizza qua c'è tutto, dico, poi sono più andato. C'erano tanti di quegli avvoltori, gli amici di quelli del circolo, cosa vuol dire, loro si mettevano la bomba da una parte e il resto lavorano gli altri, perché posso fare così, capito? A quella volta io no, e per andare, a parte che neanche i circoli vanno a fare. Sono andato solo un paio di volte, la vetta mangiava la pizza, eravamo io, la figlia di Alessia, ma la figlia di Giovanna Alessia, Simona, siamo andati al circolo e io ho mangiato qua tutta. Adesso si è mangiato una pizza intera e cosa del genere, io mi sono bevuto 2 o 3 birre perché avevo già cenato. Proprio quella, perché a volte Giovanna mi portava la bambina a casa così per farla distrarre un pochettino, la portavo in giro, certo sto di qua. E poi a fare altre cose, niente da fare. E basta, non fa quella cosa, non fa, la verità, no. A meno che non sia una cosa organizzata tra 4-5 amici, quelli che siamo, sappiamo che le persone sono come si deve, se no manco ci mangio. Un attimo, ma no, invece vedi, c'avevamo gli incontri dalla protezione civile, Cla. Ma per fare che cosa? Per andare lì? Ma per favore. Ah, ma c'è il banchetto anche lì della protezione civile, non so per quale motivo, e comunque mi avevano invitato, e infatti ti volevo invitare a te, a Pomponio, a Falchetto, chiaramente con apripista Gigino Vulcano e andare un attimino a sgranocchiare due cose. No, non ci sono protezioni civili che tengano, guarda, ti ripeto, io quando ero ragazzi non ci andavo, ma tu immagina che in quegli anni lì i pescherecci, i produttori erano molto pochi, allora, ma fare le 10 facevano uscire i pescherecci appositamente la domenica per fare 24 ore per avere, perché si è sempre fatta del lunedì, dopo la festa grande, facevano uscire le barche appositamente, Fara e Rivieccio, che erano gli unici a poco torre, adesso c'è il Rum, Veghindo, Veghidrato, una quanta minuta, ma il vero perno era Rivieccio e Fara. Ripeto, uscivano i pescherecci la domenica per avere il pesce fresco lunedì per fare questa grigliata, questa frittura di pesce. Quindi gamberi, calamari, polpettini, di tutto. Da quando poi non c'è stato più nessun riscontro, hanno cominciato a portare il pesce surgelato, schifoso, la gente non ci andava più. L'altro addirittura aveva fatto un grosso intervento dove il comune ha pigliato voi più volte. Allora hanno fatto uscire le lampare, se vi ricordate l'anno c'erano le sardine. Queste sardine stupende e contro stupende poi erano tutti congelati la stessa goccia. E adesso la sera del pesce a prodotto, la selezione si è andata un pochino a non farsi fotte. Perlomeno, io non ne ho più sentito parlare, se poi stanno continuando a fare, per me si possono anche buttare troppo, e lei e lui me la fottinuta. E queste cose che stanno continuando a fare della carne sono veramente schifose, perché uno può fare la sera a mezza e tutti ci vanno, perché sai, sono delle cose naturali, di dargli a petto un po' di olio e sale, di cui un'altra gravida e truma che taglio, ma la carne con questo caldo che c'è, tu ti metti a rottire la carne, chissà quanti giorni la stai preparando, lavorando, toccando, tastando, ma mangi con i cani di mangia. Assolutamente, ma infatti né più né meno come quando quelli che si sposano in questo periodo. Perché finiscono tutti col calotto? Perché per questo motivo qua, perché la maggior parte delle cucine e dei ristoranti non ce la fa a sopportare un carico così alto di vivande, di derrate alimentari, le tengono fuori e succede quello che succede. Ti ricordi tra quando un giorno è stato Gianni Bravo 2 che è andato, aspetta, dove era, dopo a Maurizio, mi pare sembra che era dopo Maurizio, è andato allo sposalizio e un paio di invitati e abbiamo detto di soggiornare, voglio attirare, e erano tutti quanti ricoverati per 4-5 giorni, e io invece ero ricoverato alla dermatologia. Naturalmente. Scusate che è arrivato il mio amore bello, quindi mi sono dovuto alzare dalla sedia, e non arriva mia figlia, e ho rotto anche il microfono. Sì, ma vado, è vero. Avanti, andato avanti. Ma chi? Antonio Forte? Ma Antonio Forte non c'è. Si è andato a aprire la porta e è caduto. È andato a aprire la porta, ha detto, torno subito. E tu io lo sai, Antonio. C'è per nessuno. Ma una volta adesso è un lavoro, poverino, e quando arriva mollo tutto, sono stamattina, non è vero. Io sento mia figlia quando riesco a lavorare, poi a vederla la sera, anche lei è molto impegnata con il lavoro. Al Mac. Va bene. Allora, questo zucchero filato me l'avete mangiato, così è. Ma io mi metto nei panni di quel povero ragazzo, di tua figlia, se c'è un ragazzo, che avrà un suocero così geloso. Basta di dai, mamma mia! Ragazzo di mia figlia sono io, non è un ragazzo mia figlia. Hai capito, non è un ragazzo mia figlia. Mia figlia è come il padre, mantiene solo la moglie e basta. Ce l'aveva un bravissimo ragazzo, un grande pellegrino, voglio lavorare adesso questo poveraccio, perché sicuramente non gli ha spezzato le gambe e l'ha buttato da qualche parte, no? No, l'ho detto solo, devo mettere manco più che vicino alla porta, nonostante sia un pugile professionista, ma non ho paura proprio né di lui e né di certo come lui, capite? L'ho detto chiaretto, se vuoi mia figlia vuoi imparare a mettere la testa sopra il turno e non sopra la punta delle scarpe, che a 30 anni non si può stare buttato in palestra allenandosi e senza concludere nulla. Capito, dai, cambiamo discorso, che è meglio, perché secondo me è morto di avvelenamento da piombo, da metallo pesante, da piombo, nella fattispecie, vero? Pomponio, ma allora questa cosa, lo zucchero filato comunque a domanda del prima assolutamente è riuscito buono e abbondante, mentre invece stavo dicendo, quindi Pomponio, la facciamo questo pranzo o non lo facciamo? Tu cosa mi hai risposto ieri? Ho ricotto. Io ti ho detto ieri sera, lo facciamo questa cosa. Io te ne faccio con la mia roba. E tu mi hai detto, non preoccuparti, me lo faccio tutto io. Siccome ho detto a Simona, gli ho detto, guarda, ho detto, non vuole che faccio nessuna iniziativa perché ci sarà tutto quanto voi. Io non so, ho detto, cosa fa la verità. Perché volevo, già lo sai che io voglio andare, o... Siccome domenica la domanda è già aperta, non si può andare anche sabato a comprare tutto, per quello non sono problemi. Io aspetto solamente il via da te, non aspetto altro. Cosa vuoi fare? Ci dobbiamo trovare, metterci d'accordo e mettere ognuno da parte sua e per quello che voglio dire e poi noi direttamente a farci la spesa. Siamo tre maschi, grazie a Dio, tutti e tre ammogliati, possiamo anche dire. Quello che andiamo, facciamo la spesa, vediamo cosa vogliamo fare, quello dobbiamo pigliare, dopodiché la mattina vediamo e si fa quello che si deve fare, però non c'è nessuno. Capito? Sta solamente a te. Cosa vuoi decidere? E che io sono pronto, quando vuoi. Tre briganti, solo tre. No, Pedrosi, a parte che, vabbè, bisogna che ci contiamo bene. Comunque non c'è problema, sardine vanno bene. Te l'ho detto l'altro giorno, le sardine vanno bene se sono fresche, se no è inutile pigliarle, perché adesso stanno pigliando di vizio i supermercati di prendere la roba a blocco e lasciarla in freezer, e poi quando vai a cucinare ti risultano le molle, quindi devi trovare, se riesci a trovare qualcuno a portatore che conosci qualche pescatore che ti si apre, prendiamo e cosa devi tirare il pesce fresco, lo faccio si fa per portarlo qui. Mentre si mette in frigo quello che è in frigo che si fa di piatto e poi volentieri si cucina, per dire, se dovesse essere se lo pescano di sabato o di venerdì, tutto lì. Perché adesso è un periodo, questo che io l'ho fatto, che il pesce lo mettono in frigo, lo pigliano per dire, mercoledì ce lo mettono in frigo e poi te lo presentano come pesce fresco. Il giorno prima era 5 euro, dopo 3 giorni ti ho presentato 3 euro, quando vai a mangiare ti risultava le mole ti fa cussi, solo quello ti voglio dire, allora, bisogna trovare qualche un pesce in vento dove sia in gamba, ritirare la roba fresca, se vuoi fare pesce, e una cosa anche per la carne, bisogna, il periodo purtroppo di questa festività qui e non ti puoi fidare, bisogna trovare una persona adatta, bisogna trovare una... un pesce vendere di qualche supermercato che ti fidi, capito? Oppure quello che è, però per me non ci sono problemi per il pesce, puoi fare sardine, quello ti pare ti piace, io problemi non ne ho, te lo sto dicendo. Antonio, posso? Devi. Ma io non ne compro mai pesce in pescheteria, mai ho comprato, non ci vado io a comprare. A parte che a me direttamente me la portano a casa delle sardine, però quando mi serve io vado, quando entro nel pescherici la mattina presto, ecco lo prendo quando entro nel pescherici, io sempre le sardine, a dire la verità io non le compro mai, io l'altra volta ne avevo più di me l'ha dato una cassetta, mi è presa, mi è arrivata la mattina al pescherici, me la porto direttamente a casa, una cassa ne avevo, neanche la metà ne ho, e poi ce l'ho buttata, la volevo regalare, ho detto un amico passa a prenderla, ne avevo addirittura una cassetta, capito, ne avevo una cassetta, ne ho buttata in frigo però non per portarsela a pescare i miei figli, io non è che vado alla pescheteria a comprarmi le pesche, no, io vado quando mi serve proprio che voglio farla, io vado giù al portatore, la mattina alle 6 ci sono già lì giù io a commettere Pescherici, c'è qualcuno che conosco e c'hanno le casse delle sardine e me la danno. E so cosa c'ho, capito? E mi prendo la cassetta intera, quello che il pesce che entra la mattina, ma dopo lo prendo fresco. Insomma, era un'offerta, Gigi, perché io mi affido pienamente alle mani del maestro, assolutamente. Consiglio, ma ti ripeto, queste cose si imparano stando vicino a chi te le insegna. No, non a chi te le insegna, in questo caso che non va a prendere troppo, caso tu sai già che sai quello passi lì al mercato, perché poi se vedo, se tu prendi un tipo Claudio se ne accorge, lo vedemi, perché uno si appena il viso si accorge se è fresca, se è congelata. Io me la colgo la sardina, se è fresca, me la colgo subito. Se siccome comprate la muovo, tocco, me la colgo subito io. Anche guardando, neanche se la tocca le mani me la colgo, se è fresca o no. Sì, ti ripeto, poi se c'è da fregare ti fregano anche lì. Però, Gigi, cosa vuoi ti dica? Mi stai mettendo nella condizione di dire adesso uno di questi giorni scendiamo a Porto Torres e ci fai vedere anche come si riconosce il pesce, perché io obiettivamente se mi vogliono fregare mi fregano. Mi vendono a esca per pesce da mangiare. No, io quando voglio fare una cosa, la pescheteria, ma stai scherzando, io quando faccio una rosetta di sardine, a parte lo chiedo già amici, capito, amici che sono a bordo del peschereccio, lo chiedo a loro, capito, perché ripeto, ne conosco pure lì, come ne conosce Claudio, ne conosco pure io, c'è qualche mezzo parente di mio figlio che addirittura il suocero lavorava, era il cuoco del peschereccio. Il primo che si mancava la sardina con la rete, ecco perché ti dicevo, quando entrava il pesce me lo mandava sempre, adesso c'è il fratello del suocero di mio figlio, che è il peschericcio, anche lui me lo dava, cerca, mi telefono molto la sabato, mi chiede se vuoi darti una sardina, vieni a prendere la mattina presto, e tu non vuoi fare, invece poi me ne ha portato, è passato mio figlio e me ne ha portato a lui la casetta, e ora ne va zio io, cazzo. Una cascetta di sardine della Ruggio Rumore, se non volevo dire la cascetta di sardine da solo. L'ho fatto un po' umido a ora di pranzo, perché era già ora di pranzo, però accendere fuoco e per un po' di gallo pura. Ho messo in frigo e poi l'ho fatta marinata e un po' ce l'ho buttata in freezer, te l'ho preso per pescare. Io fresca, mentre in freezer ce ne ho un mese di sardine, se non volete me la do io le sardine, però sono in freezer. La scongelate e me la cucinate, in verde. Lui, ma non ne hai messo più in quel pigiatino, aglio, presemolo e peperoncino? L'ho fatta così, l'ho fatta. Grazie, già ne ha mangiato le cose con le cipolle. Mica già ne ha mangiato. Vennaggio me, ne ho sardine sotto sale, ne ho ancora me. Me ne ha ancora... me l'hanno anche portata già fatta, capito? E quasi già l'ha mangiata qualche volta quella che faccio male nata. Oggi, ma io sai invece come le vorrei fare? A me mettere in un lavamano uno che mette sale e uno che le gira con le mani e dopodiché sulla graticola, così proprio devono essere un po' grasse, perché almeno così mi hanno detto, perché se no diventano troppo secche quando le cuci. Adesso io però buttare, io l'ho messo in freezer, cioè sarà ma ci sarà un 2 kg, no? C'è un chilo e mezzo ce ne sarà in freezer. Ma non è buona fare arrosto, assolutamente, perché è messa in freezer, è fresca perché l'ho messa fresca io, capito? Però se tu quella lì la metti, la fai in umido, è l'ultima, perché non è che io l'ho messa dopo che era, no, l'ho messa subito in freezer, capite? Ho fatto un coso grande, l'avrò fatto, guarda, non voglio esagerare, ne ho fatto 4 kg marinata, 4-5 kg. Certo, lì se siedono fuori lì sotto quella veranda, impari a quell'amico di Pierpaolo che si fa dire che Roberto è maturo, se siedono miei figli di fuori, c'è mille, cazzo. Lì fate, cioè, fare merenda, per un po' cannanate, un coso umano, c'erano cioè, almeno 4 kg, 4 kg pulita, tutta sottolinea con la cipolla. Cazzo, e un altro di Alghero, c'era un altro amico loro di Alghero, in 4, non pare girane. Cazzo, ma vedete se ne mette, tu mi hai detto 4 kg di sardina in chivi. Cazzo, ma c'è tutta se l'hanno qua. Intanto c'è cosa vita, le fai il tuo figlio, ma te sei, no, ma sono buone. Tanto lui le condisce con la cipolla tagliata fine fine, l'olio buono d'oliva, condite bene. E sai lì, sto assaggiando un buon bicchiere di vino, ogni tanto con Gigi l'assaggiamo. Ma anche sotto sale sono buone, oggi, anche sotto sale quelle, no? Prese direttamente dal barattolo, ho dato una sciacquatina aperta e messa a tavola. Un buon antipastino quello. Perché tu cosa vuoi fare a tu? Io volevo fare semplici, però Gigi, se hai un punto di riferimento, cioè se hai una persona, anche di quelli che hanno i pescherecci, da trovare lì a Portatore, se ci vado, domani mattina o dopodomani mattina mi avvicino. L'unica cosa, no, io volevo fare semplici semplici, proprio salate e messe sulla graticola. Senti, quando è fresca vuole così, quando è fresca tu la fai tutta la ripa e la vuole sopra la graviglia. Quando sono fresche, io lo abbiamo fatto l'altra notte, adesso notte tempo fa, adesso me l'ho portato nuovamente, no, ti ricordi l'avevo preparata tempo fa, che mi piace la falchetta, chi è che c'era? Ti ricordi l'ho fatta quelle sotto sale, ti ricordi, da poco? E ce n'è ancora metà, no, Antonello Vira mi pare, Antonello suocero che mi aveva portata a lui, no, Antonello il fratello di Antonello, già lo conoscerai che lavora in peschereccio, è lui che gli ho dato, cos'è, gli ho dato il buscato in barattolo, lui me l'ha allargato, no, l'usare l'ha giurato, te l'avevo fatto di usare, mi. Gli ho dato più di 30 kg di sale, capite? Lui me l'ha portato un barattolo di salina a buttare a sottosare, a farla fatta sottosare, capito? Per farla sottosare. E ecco perché. Il giorno che c'era Antonello la stavamo facendo, la stavamo pure da Antonello, e ho detto Antonello, questa pure. Antonello la stava preparando, ti ricordi il giorno, da quel barattolo mio? Eia, mi ricordo sì. E infatti te l'ho detto, ma assaggiamo, ti ho detto, non è ancora pronta. Questa è già pronta e condita. Oh, già mi ricordo perfettamente. Sì. E comunque quella è buona, Anto. È buona anche perché è un tipo di sardina che è di quelle grandi, capito? Quando la apri veramente ce la mangiate. Se no ce ne sono certe che servono una fiuga, non servono niente. Ma infatti dico grazie per quello. Fra l'altro, dico, è un peccato che ho la casa Giova Pradona è affittata, se no volentieri avremmo fatto almeno una decina di persone ci saremmo potuti riunire. Noi per riunirci non ce ne abbiamo problemi, ti ho già detto. Tu basta che fai un fischiettino, però senza metterlo sotto come hai fatto l'altro giorno. Fai un fischiettino a Luigi, vedi in questo periodo così che c'è fresco, sai quanto si sta bene lì in garagino da lui, poche persone, tranquille. È un fischiettino senza metterlo sotto, non ho capito. Ho detto tu basta che devo dire a Luigi senza metterlo sotto, però come volevi fare l'altra volta con la macchina? Ma ce l'ho temuto, ho detto, come sei girato, c'erano gli occhi di braccio, il mio vulcano. La grappa deve staccare un braccio, ma è te già il giro che ti ha fatto, eh? Oh, era un po' incavolato, era incavolato. Però ho visto, c'era il mio tracciato in mano, due guanti, gli ho fatto, se se ne mette mi prende a schiaffi e non ne rimane. Infatti non mi sono neanche fermato, non so se hai visto, ho detto e sono andato. No, comunque a parte gli scherzi, se ci vogliamo riunire qualche giorno non c'è problema, posto già ne abbiamo, ci organizziamo da una parte o dall'altra, già ci organizziamo, poche persone, buone, e vedrai che si sta bene, non c'è problema. Noi l'abbiamo già fatta a Luigi. E ma quanti eravamo lui il giorno? Beh, ne ho fatto più grosse. Ne ho fatto con due casse di sardine, una notte, ho messo tutto, nel piazzale che c'ho tutti i tavolini lungo e lungo, il tavolo è lungo e lungo lì nel piazzale, c'era Luigi a cassetta, se lo conosce a Luigi a cassetta, lavora adesso, che prima modulava un bel anno indietro, al periodo che c'era Giovanni Caposanto, ma io parlo anni indietro, già lo conosce a Luigi a cassetta, lo conosce sicuramente, tu che lavora adesso. Tu chiamo Luigi a cassetta, lo chiamo a cassetta. Bravo, e dopo più, dove con lui cazzo siamo un bei amici, andavamo con le rispettive le famiglie, andavamo sempre al mare insieme, andavamo sempre assieme con lui, ci capito, prima di succedere quel fattaccio là, andavamo sempre insieme, andavamo al mare, eravamo sempre assieme, capito? L'abbiamo organizzato di cose con Luigi. Non so, grande, dici grande, io lo conosco. Sì. Io stavo più da Giovanni e lì, stavo più lì a ottava che a casa. Quindi, dopo ci conosci, ma ci sono problemi. Nessun problema, ci siamo visti quando è, due domeniche fa ero con Mauro lì da Reggio Corsicano, c'era anche Giovanni. Va bene, chi c'è rimasto? Pompo mio, c'è ancora, c'è Pompo, quale stai grattando il pelo? No, assolutamente, è un pelo mi tratto. L'unica cosa è fare così, Anto. Quando ho beccato presto la mattina, ci vuoi di Roberto, se no bisogna andare per forza a Prodottore. Una volta, tanto tempo, ti parlo tanto tempo fa, forse neanche tu eri entrato, allora c'erano i casotti giù a Pratamona e di solito si andava direttamente, c'era Scioppetta che pescava, lui la canna c'era, poi c'era Gabino, si è morto, la buona rimane di motore e cosa c'era? Adesso mi ricordo di un attimo, adesso ricordo a Claudio, scendevamo lì, siete mangiate di cose, di pesce, sono di carne, mamma mia, mi ricordo di Antonio San Giovanni là, il divertimento da. Intanto sparisce. No, ma stai parlando, cioè, era lanciato a Claudio. Eia. Vabbè, non ti cazzo. Stai incazzando. Scendendo ci metto poco a fermarmi lì in via Guarda Basso. Ecco, e poi andiamo a cosa? A Sussigne. Ah, io mio, compriamo, guarda, c'ho 50 euro, compriamo sardine o compriamo coreane? Se vuoi andare, andiamo adesso e... capito, e te ne ho preso un paio, poi puoi invitare la bestia, tanto non è su che non c'è niente, c'è 70 euro, ho aumentato la parte, 20 euro in più vogliono, quindi non ti conviene. Ma tu, non ho con te? No, vai, dimmi. Ma mi anche Claudio ci è sceso tantissime volte. Cosa succedeva? Io scendevo lì a Polo Torres e c'era Franco, Luca, Luca, se lo puoi chiedere a Luca del Monte, andavano a pescare giù a Polo Torres. E Marco fa la porta, io anche Claudio a volte scendevamo lì e ci andavamo poi a prenderci un caffè o una cosa, dai, per passare un'oretta, ma no, non è che per pescare, ma andavamo a trovare, allora ci andavamo a prenderci un caffè. Manca fa la posta ogni volta che arrivavo io, tic, e pigliavo la latta da 3-4 kg. Ogni volta che gli arrivavo io gli abboccavo la latta a Franco. Ogni volta. Sono ritorno, arrivo e ne avevo già preso un'altra bella grossa. Arrivo, gatto, arrivo io, guarda da farmi la macchia, poi che è a tavola la picchia, prende, gatto. E ne ha tolto una che era sui 4 kg. Una grossa enorme. Cazzo, la prende, cazzo, come le ha tolta fuori, erano intorno alle 11 così, era, la mattina, ha detto, ma, tanto ne è un'altra, me la dai, E mi ha dato 30 euro, 30 euro gliel'ho pagata, l'ho presa, salgo all'ottava, con la FIFA era, salgo all'ottava in fretta, gatto, la pulita, la faccia, la condisco con aglio, prezzemolo, un po' di coso, invece la metto nel forno della cucina. La Rosè così è esorata, spettacolare, ma spettacolare, se non dire ancora viva, mi ancora muovendo, e qua sono arrivato all'ottava, l'ho presa, e da ottava, da pronotore da ottava, capito? Come nella tirata fuori, la coppata, taglio bigliate, mi taglio bussata. Mi stai facendo scivolare sull'acquolina, quindi mira che ho mangiato solamente zucchero filato oggi. Fate degli diritti, io no. No, comunque, a tu e a Tonello Celli. Tonello Barracuda, sì, è qua che è, sta fumando, adesso te lo passo. Dimmi tutto. Sì, Antonello, però se passo io devi mettere il boccione di vino in fresco, capito, devi mettere il boccione di vino in fresco. E il giorno che passi, non vedo che te lo metti in fresco. Sì, perché non ne ha già in fresco, c'è il frigo, c'è solo il vino. Caparroggio, dai, caparroggio. Però non mi va meno zucchero filato, capito? Io non so, un'altra cosa, un altro tuzzichino posso mangiare, ma lo zucchero filato non mi va. Lo facciamo caramellato a te. Sì, no, non mi va proprio lo zucchero filato, non lo. Una cosa che non mangio, lo sai, non mi va proprio, vedi? Poi un'altra cosa posso fare, non so, un gelato, quasi pure un gelato, non lo so, o niente, capito, anche nulla va bene, però no, la zucchero filato no, non è una cosa che mi piace. Poi non so se voi lo fate diversamente, io parlo quelli che fanno quando passano le feste, c'è qualcosa che lo fa, quello non mi piace a me. Ma chi, adesso a parte gli scherzi, sono venuto più che altro per fare felice la bambina di Antonello, per fargli una sorpresa. Però stai pur certo che c'ha un filo vero che la metà basta, Ma cosa c'ha? Un filo vero, acqua vitte. Ce ne stiamo schiccherando un paio di bicchieri e sono già allegro. Oh, vabbè. Quello è un segno buono, l'allegria ci vuole sempre. Io di quella roba lì non la bevo di quella roba lì. Posso bere un goccettino di limoncino fatto in casa, un goccettino di mirto, lui c'ha sempre le scorte, però fino a vero lo posso assaggiare, ma non è che sono un grande amante. No, negativo, ma neanche io, soltanto che quando la roba è buona, so riconoscere, ho la presunzione di saper riconoscere la roba buona, e questa qua devo dire la verità. Oh Claudio, ma tu l'avevi assaggiato quell'uva che ho fatto l'acqua vitte? L'avevi assaggiata tu, quell'uva che era di Manuzzi, tu vedi questa qua qui ed era più buona, legata di mezzo. Accendi tu la volta dell'uva, di quell'uva che avevo fatto, mi pare che tu venivi e l'assaggiavi sempre. Assaggiavo, me la giovania l'ha detto io che non devo via nessuno, era troppo forte. L'uva sottospirito stai dicendo, io e Franco ce la mangiavamo sempre. Veramente, ma con la convinta, ma dove tirate la voce? Te la ricordi quell'uva, quel barattolo grande di uva, te ricordi? Io se mi ricordo. La moglie che mi ricordo d'inverno, ci passava anche quello, andiamo freddo, schiudevamo i garage, ui, quella era buona, solo venne zuppata da quella vita, poi ci aveva portato dentro tutto l'alcol, questi acidi di uva che erano una cosa spettacolare, ma grandi, e ci passava anche quella, molto buona. L'avevi fatta da tanto quella però tu, perché a diventare così forte vuol dire che era da tanto sotto spirito, diciamo, sotto l'effetto dell'alcol. Più di un anno era più di un anno, l'avevo fatta dal periodo dell'uva, che c'era l'uva, poi era venuto l'inverno, poi era venuto l'altro inverno ancora, era più di un anno che c'era lì. Me lo posso immaginare, saluto. Dai, sono già le 11 passate, 11 e 10, una mattina presto. E poi vi faccio adesso l'ultima. Un abbraccio a tutti, ciao Luigi, ciao Antonio Grotte, Antonello, Patrizia, Lì, Policini, insomma tutta la, il vostro QRA, Antonio Alessio, salutatemi a Antonio Forchetto se volesse rientrare, ma lui tra un po' già rientra subito. Un giorno circolare a tutti, ascolto finale, poi chiudo e spengo tutto. Avanti Pomponio, riprendi. Io, ciao, ci sentiamo domani, dai, al limite, non c'è problema, quando vuoi. Siamo qua, avanti, Luigi. Ciao Claudio, dai, tutto a domani, dai. Tutto a domani, domani faccio un po' di commissioni, poi devo fare quel piacere a Pierpaolo. E via, dai, faccio questi 5 kg di salsiccione che lui vuole. E via. E poi mi riposo un po'. Oh, ciao Cla, mi sentite? Me l'ha ascoltato, ma ti faccio uno squillo quando sto scendendo? O, mi dovevi dire cosa? No, oh, non è niente di importante, non ti preoccupare. Il telefono già aspetto, già ci sentiamo domani. Niente di importante. Ok, dai, fatevela buona. Buon proseguo a tutti, se proseguite, altrimenti buonanotte a tutti. Ci sentiamo domani, signori. Stessa ora, stesso canale. Buonanotte a tutti. Papà, se... No, vabbè, domani per un caffè, se ci sei, dai, mi fa, fammi uno squillo, mandami un messaggio. Ti passo il barracuda per la chiusura. Ciao, Cla, ben sentito, già te lo porto il vino, te tranquillo. Ehi, non c'è problema, Tomè, ma stai scherzando, dai, se domani dovrei essere libero, insomma, non voglio fare molto tardi. Ci rientro anche domani, ma io penso intorno alle 5 o 6 di essere già attivo. Magari quando stai rientrando chiamiamo a Antonio e andiamo a prenderci un caffè lì sotto casa lì, intanto ti viene in passaggio, poi scendi dalla scala di ciocca e te ne ritorni a casa. Ci prendiamo un caffè tutti assieme domani sera. Dai. Buonanotte a tutti, un abbraccio grande, ciao, a presto, cambio. Ciao ciao, scusate un attimino, anch'io riprendo dalla Grode Mobile fra 5 minuti, dai, che lascio libera la famiglia Barracuda. Va bene, oppure riprendita, dai, io rimango in ascolto e poi spengo. Ciao a tutti, buonanotte. Io, ciao, grazie, sentiamo buonanotte, domani, ho problemi oggi quest'anno. Allora, Luigi, devi fare 5 kg di salsiccione. Sì. È positivo, dai. Perché noi quando ci mettiamo, quella è una minima cosa, 5 kg di salsiccione, ho già messo a macerare l'aglio con il vino bianco, un po' d'aceto. No, io il salsiccione non ne compro, me lo faccio io, prendo la carne, la macino, la condisco e me lo faccio, le budella e me lo faccio io. C'ho tutta l'attrezzatura, come ce l'hanno in macelleria, ce l'ho pure io. Me l'ho sempre fatto io il salsiccione, io il macinato per la pasta non ne compro io macinato, io prendo la carne, compro la carne e me la macino io. Visto il macinato me lo faccio io, me lo condisco io, lo faccio io. Esclusivamente io, non compro carne macinata, a volte quando non ne voglio me la faccio il pezzo della carne e me lo faccio macinare davanti, capito? Già macinata io non ne compro mai, il pezzo della carne me lo faccio tagliare davanti a me e me lo faccio macinare al momento, però di solito me lo macino sempre io. Sì, ho capito, no, io di solito, anzi di solito, prima mi veniva bene perché sarei fatto quasi ogni tanto, sarei fatto il gabbino sale, siccome c'è una salumeria, cioè una salumeria, fa salsiccione, cosa del genere, hai capito? E fa il salsiccione buono, lo fa per cucinare anche salsiccia normale, lì su Ausilo, e quando andavo a fare dei lavori mi regalava un coso di salsiccia. Ma veramente buona, se c'è quella, non per quella per cucinare, perché quella è troppo grossa, non mi piaceva, ma altro tipo, quella so perché si chiama proprio di conserva, chiamare il coso di filocchetti selvatici, ma veramente buona era. E tanto devo dire, capisci, adesso non apparecchio, non c'è salvo, la verità. Comunque lo vedo spesso a lui. Venire qui al bar perché va da soli a bersi qualche cosa e poi stare direttamente a Uzi, ho capito. Positivo, no, io già sono il re di quelle cose, dai. Sì, sì, io mi macino il pepe in grano, il peperoncino e i finocchietti, tutto macinato, tutto assieme. Metto anch'io i finocchietti, anche le salsicce lo metto. No, no, io ci abbiamo questa grande cosa fatta tra di noi, che io me lo faccio sempre con la mia famiglia ogni anno. Poi lo faccio con gli amici, però quando lo faccio con la mia famiglia sono solo io e la mia famiglia, capito? Adesso lo dobbiamo fare domenica sera, domenica notte, una grande festa, ma noi in famiglia, però noi senza non c'è nessun amico da fuori, solo noi in famiglia, noi tutti, i miei figli, mogli e via dicendo, capito? Infatti domani mi faccio il salsiccione con disco, la carne la lascio condita in frigo, una volta che condita la carne è a posto, e la lascio condita tutto il giorno e domani, e lo faccio sabato, l'insacco, faccio il salsiccione, lo rimetto in frigo ed è pronto per arrostire, capite? E poi c'è un'altra carne che farò, e ne ho di cose. C'è il garage tutto pieno di bibite, capito? Pieno di bibite, sono tre casse di birra messe già lì, vino, di tutto c'è. Però questa è una cosa nostra come i figli. Ho capito, come fa Gialina la stessa cosa? La tua rivale che tu già la conosci, con Battiano, fa la stessa cosa, quando c'è la fare festa, la fa con i figli la fanno con loro. Sono molto unitti, la verità, veramente unitti. È sempre in festa, insomma. Ogni Natale mia zia si fa il giro dei figli, e abitano quasi tutti di lì, già li ho visto, non è che a parte qualcuno che è fuori. Tipo anche su Sant'Anna vive ancora la stanza e gli ha ottava la vita con le figlie, però gli altri già vivono di lì, perlomeno a parte Pinuccia, ma comunque sono sempre uniti e si riprendono almeno loro. Vabbè, Piero sta bene con quel lavoro che fa, ha avuto culo, quindi sta veramente bene, è entrato là da poco, adesso è c'è una grande cosa, beato noi, ha saputo investire i soldi e come farli, la verità. È positivo, sì, però già sta lavoracchiando adesso, dai. Di meno di prima, però attenzione, molto di meno, molto di meno, però già sta lavoracchiando, diciamo la verità, dai. Non sta facendo come un tempo, è più fermo adesso, perché io lo vedo, non sta lavorando come lavoravo una volta, però già sta lavoracchiando. Pare a braccio di ferro e tu sì, di nome nativo. Capo, ma c'è le risse, capito? Sta costruendo case. Non pensare che sia così, ha capito quello che fare i soldi. Sta investendo, i soldi che fa li investe in fa costruzione di appartamenti e poi se li vende se li affitta. Sta facendo così adesso. Non trovo passare così a Piero. Piero lui ormai non si può anche stare tranquillamente in casa, già lavorano gli altri per conto di lui, quindi è una specie di impresa, cioè. Ne ha costruito case lì e se ne ha anche affittate, i figli sono a posto, ogni figlio c'è un appartamento, quindi è in vita, cioè. Io Piero ne ha anche affittate lì, Piero. Neanche affettate, ma questo periodo sta andando, te lo sto dicendo perché lo so, dai, non sta girando bene questo lavoro, gli sta andando un po' male, capito? Questo periodo non so da chi ci lavorava con lui e non stanno lavorando, ecco perché, te l'ho detto, e in questo periodo non sta girando bene, capito? Il lavoro non gli sta girando proprio come gli girava una volta. Ma è la carlata lui, anche se parla già, per quello è già intelligente, ha pagato molto intelligente la verità, ha saputo fare i soldi. negoziare proprio gli appalti, no? Non preoccupati, non è tipo che si addormenta in casa, no? È sveglio, molto sveglio, e quindi ha capito come fare i soldi, sta bene per quello. E ciò cosa ho per lui. Lui in pratica ha saputo fare i soldi in momento opportuno. Poi adesso lui può stare anche per dire anche 3-4 anni fermo per dire, a lui non succede nulla, c'è sempre soldi da parte, quindi quando vuole si mette in movimento e recupera. Non è uno sprecone, capito? Noi quelli che quando si vedono che si cominciano a fare un po' di soldi chiudi la sede svagata, no? Lui è tranquillo, lui i soldi si li investe, perché compra, costruisce, poi affitta, vende, fa quello che deve fare. Non è macco, no? Positivo, vediamo se ha ripreso Antonio. Antonio, ripreso, eh? Di che cosa sta parlando? Ma non è Antonio questo, no? Quando vado a ricollegare i tecnici, sento qua incasinati. quindi lo GPP li conosce subito, perché è un ricchio che lo GPP l'ho regolato io, quindi conosco i tuoi. Sì, ma io questo se me la fregano, non la possono usare, perché se la mettono poco a poco io, vedi questo, ecco, questo è l'ecco mio, questo l'ho fatto fare io, l'ho fatto fare io così, capito, e quando l'ho fatto fare qualche domanda, Romeo. bicchierotto di vino. Ma non so se sta lavorando più a Torino, io non ci sono più, lei già un giorno, io porto molto la roba da Cagliari, la roba del Lene, glielo scaricavo lì, capito? E salivo lì, facevo il pezzo di nuovo, e poi salivo lì, poi c'era il coso, quel fabbro, e c'è lì vicino al cimitero, sotto il cimitero, anche lì andavo a portargli la carpenteria. Che sta lavorando sempre, non so se poi sta sempre utilizzando il suo, diciamo, il suo ripostiglio, comunque so che sta lavorando sempre, c'è rotto. Positivo, dai. Prima facevo un po' da caglia, adesso pare che è chiuso lì a Macchiarito, io glielo carichiamo lì a lui. E non ho fatto di viaggi, c'era Beniamino che lavorava con lui, che veniva a caglia per levare la roba. A volte veniva lui Antonello, poi c'era il cognato di Antonello, lo conosci il cognato di Antonello? Caffa. Anche lui veniva a tagliare con me in camion, addirittura in camion con me, o saliva con Antonello in macchina, capito? Io gli ho fatto troppo, lui ha detto tu non sei accompagnato, io lì ci salivo con l'articolato. Bene, poi per girarmi e cosa facevo manovra lì, ma c'è indietro e poi riscendevo nella via che è un po' strettina. Ma ci siamo lasciati adesso, mi ha messo sulla retta via. Vedi che vuoi Caparrogero, ti piace questo birichino, questo è l'8001 e... l'8001 con due matti in antenna, cambio. Hai tirato fuori i muscoli, dai, adesso da qualsiasi parte ti senti. Poi guardi in antenna, l'elicottero volante, senti come girano le pare dell'elicottero, cambio. Falchetto voce, Falchetto ha salutato, dice Antonio e a Cipollina, ha cambiato il nome, ti ha cambiato. È confuso, invece Pollicina Cipollina. Perché ha cambiato il nome? Ti dico quando ti ha chiamato Cipollina. Ah, guarda, c'è che c'è il radio. E c'è Cipollina, Antonio. Anto, ma la strada la conosci, sì. Stava Roger, sto scendendo, non ti preoccupare. Comunque a quest'ora non sarà finita la festa, 11 e mezzo sono. Non si preoccupare, faccio finita. Sai che tutte le strade portano Sassari. Sembra la modulazione mascola e ruspante. Quello con quello che mi hanno detto, assolutamente, me ne è passata ancora la voglia di andare via a tutti i miliardi, cioè con la stocca non la carne, con la come marcia, capito? Dai, un attimo, si deve... Ragazzoli, dai, fatevi buon rientro, e ce la riascoltiamo tutti, non ne ho solo, a me sono qua la prata una, mi faccio il bagno e poi me ne risalgo. Sì, io andiamo assieme, non c'è problema, me. Non mi fidano se sta messi a qualche squalo alla deriva e poi rientrava in bagno, lui qui subito no, poi scompaio le ragazze, andiamo a farci il bagno duro, lui tanto senza bolli, siamo tranquilli a quest'ora. Chi è questo qua in lontananza? Anto, ti sta spennando il vulcano, ti sta spennando. Tu non che gridava, chi era? Stai parlando con me? Mi era quello che gridava. No, negativo, sono io qua, sto gridando. E c'è nel barbiero? Fa, attenzione Gigi. No, è già chiuso. C'è Antonello ancora, Antonello avanti. No, mi stai dicendo, non sei che stiamo urlando, io non sto urlando. Vuol dire, no, l'ho sentito ma c'è una modulazione forte, cosa hai fatto qua? Cambiato le corde vocali. Le corde vocali? Mannaggia la miseria, come sei arrivato così forte? Solo io posso averla così forte la voce. Scusa, ti supero? Sai che mi superi, mi stai superando proprio. Sei un segnalone a fondo scala qua, ma sei sotto casa mia. Mamma! No, io sono a Ossi. Pure sei Ossi, non sei sotto qua a casa. Mamma! No, sono a Ossilandia. C'è qualcuno che chiama? Non so se Pollicina. Pollicina, sei tu che stai chiamando a... No, la figliola di un raggio di sole. Quella che chiama mamma, tua figlia, ma... Io pensavo che era in macchina di coso, però, è di Pollicina, Mamma, dove sei? A casa, hai sogni? Sì, sono a casa, dimmi. Lei non ha detto prendi le sigarette. Lasciami prendere fuoco. Un po' di acqua calda. acceso, sono già Pippi, scusatemi, non volevo sovramodulare nessuno, ma volevo scaldare i finali a Pomponio, dove ero sotto casa sua. Attento Gigi Vulcano. Sempre entusiasmo. Dimmi, ho capito che quando ti senti di tuo marito non ti ho copiato bene. E c'è anche Antonio Bruno che parla, ne avete parlato in due. Stai dicendo Antonio, no, che sta parlando Antonello, cosa stai dicendo Antonio? Non ti ho copiato, cosa hai detto? Quando ti senti il tuo marito, la modulazione, non ti ho copiato bene cosa stavi dicendo. Ho detto, adesso che tu sei fuori in vettura, che stai rientrando, riesci a ascoltare la tua moglie, adesso ascolti la sua modulazione, bella, forte e chiara. Ma è anche la tua scherza, non è che la tua scherza, porca miseria, Che più passo sono io qui, capo? Più passo il zio Falchetto. Poi? Non ti preoccupare. Signor Pomponio, c'è anche lui, buonasera, non mi hai neanche salutato. Sì, che ti ho salutato, tutto ciò Patrizia, ben ascoltato, sto patendo io, figurati. No, preoccupate per quello lì. Come è stato a posto? È abbastanza bene, la ringrazio. Molto gentile. E lei come va? Lei è la sua signora? Sì, si me l'ha lamentata adesso. Oggi è stato male io, un bel forte anche. E infatti non sono neanche tanta baracina, è stato meno io, è stato meno lei in addirittura. Allora ti mi ha pigliato un po' di calmati stasera, perché pensavo di andare a tutta la cosa, la verità. Siamo di zombie forti e quindi sono rimasto dentro casa, chiuso, dentro al letto, poi verso le... sono stato di auto, forse altrimenti non lo guardai, sono stato a baracchino, dopo che c'era altro. Marco si è rientrato. Comunque insomma, sto bene, mi sono ripreso. Ma cosa gli è successo? Mi racconti, non mi poteva chiamare, l'ho fatta riprendere subito, immediatamente io. Aspetta. A parte c'è quello che mi riprende con la tagone a me. Prima le gambe e poi le braccia. E che me ne aveva? Mi racconti. Dottoressa, cosa vuole che ti dica? Sono purtroppo giù di una vecchiaia, mi ritengo e ce li ho. Ho preso l'auli e mi ha fatto male stamattina, ho preso il peso di giuro senza prendere niente e quindi mi ha fatto male. Poi già mi sono ripreso stasera, meno male. Sto meglio, adesso domani cano un po' torna. Faccio un giro, devo andare a riscuotere di Eros e gioco a posto. Una bella vera. Antonello, dove ci hai fatto? Oh, se devi galoppare c'è l'ippodromo. Ah, ma non so che c'è l'ippodromo, non vedo anche l'ippodromo, quando vedi addirittura per i cavalli. Ho binocolo qua, si vede tutto chiaro. Cappa di roccia. Invece all'inizio vedevo quando facevo la pipì della cosa, nell'atma fontana che c'è. La terrazzino, vedevo tutto bene. Riprendo il QTH. Cappa. D'accordo, non c'è problema. Anto, dove ti trovi adesso? Sono arrivato a casa. Ah, non ci vai a Osilos? No, negativo, troppo stanco, dai. Ci sentiamo, se riprendi al QTH ci sentiamo per 5 minuti. Perché a Osilos? Certo che c'era la cosa di cavare con l'anello, così me ne va bene. Comunque è bello l'8001, ascolta, non è che facciamo scambio con il 68S? Oiaiaiaiaiaiai. Con la minici, amorello. L'8001 si tocca, cambio. Questo c'è un muro alto per anni, capisci? Questo è arrivato in tutto il mondo, capisci? Questo il Gigi Vulcano ha parlato con tutta Italia e tutto il mondo. proprio una modulazione dai cavalli in costa senza carrozze. Sì, sì, ma questo ricordati che è puro sangue. Questo Gigi Vulcano fa parte dei grandi modulatori puro sangue. Pure io sono puro sangue, scusa, non per questo devo modulare come... ma che microfono è? Questo è un microfono amplificato o un altro apparato? Tu c'è un apparato con la tua voce. Scusere per nessuno, sai. Che dopo di raggio di sole perché ti ho fatto esaprire, non mi dimentico sempre il nome di battesimo, però raggio di sole, lasciamo perdere quello di battesimo, meglio sempre il raggio di sole. Aspetta, fa che apri la finestra, senti l'oro che c'è fuori, di cipolla. Si sta sollevando il fumo, sta venendo verso qui, quello che c'è ancora a Santa Maria. Apri la finestra perché c'è l'oro di cipolla. Si sente. E chi è che sta rossendo? A Santa Maria stavo rossendo, c'è le... Il fumo sta venendo verso qui, il vento sta portando il fumo verso qui, ma c'è l'oro di cipolla fuori, da morire ce n'è qua. Io sento già la chiusura che tu, c'è proprio, se tu guardi in alto, verso Sassari, c'è questa cosa bianca, c'è questa cappa bianca, guarda a me. Già guarda, vedo un po'. Comunque vedo, sento che ti attizza un po' l'odore della cipolla, e piace anche a me, è arrotto. La verità, con una bella fettina di cavallo è il massimo, Le due vi attizza la cipolla o non cipolla. Tu rientra a casa, rientra. Tu, Pomponio, vai a nanna! Ma che, aiutami! Io so per la pace. Patrì, vestalo. Ah, lo rincio! Rincialo. Fa la cortesia a qualche re che mi ospiti a casa tua almeno per stanotte. Poi ti bisogna fare bene a culo uomo come ti rientro in domo. Ma addirittura è tanto male, cari, dai. Mala è qualche mala. Che mia figliuccia non toccare al raggio di sole che mia figliuccia, capito? Se non devi passare sopra il mio cadavere. Che è successo? Cosa mi stanno dicendo, Gigi Vulca? Senta, tutti per la caccia in culo, hai detto non toccare. E non prendo la caccia in culo? No, è lei che prende la caccia in culo a me, Falche, aiutami! No, ha detto che è lì che la prende a calci per sedere a lui. Ed è un apponato che già lo esce mai male, sa vivere. Ma devo affatturare dal sbaffone, il batolare. Prima lo devo affatturare a Sudrettano. E la voce lo batolare il bafone. Teatro. Preparati, mettiti le cose di acciaio. Fottito. Non mi immagini stanotte. La mascherina, Nini. Sta attento, fai qualcosa della pubblicità, non ce n'è d'acciaio? Non è male. Sì, fate l'amore o fate la guerra. Ecco, ma mi date di guerra, da? Ma se per l'amore, no? Un soldato fa guerra di guerra ogni tanto, no? Che sentito, dai, attorno, preparati. Grazie, Falchia, sul momento giusto e siamo devo a te. tutto chi. Può a te, ma può a me, no, è esatto come ti rientro, l'uomo se lo usa macchina, e faccio segno della croce, poi dimmi ti succediti. Fammi sapere, Ma lo lascio aperto, così faccio sentire, non devi fare il segno della croce, devi portare la croce in casa per la banda. Ma ti passa mia torre, ero morto. Gigi Vulca, fai la cortesia, fai calmare il raggio di sole che si rientra a casa e mi prende a calci nel sedere. Però sei voluto tu, Antone, te la sei cercata tu, non è... Ti sei messo tu in mezzo ai pasticci, adesso te ne devi sbrigare tu. Grazie amico, complimenti, un attimo. Io sono il difensore del raggio di sole, mi dispiace. Lei è mia figliuccia, non si tocca. Io sono il suo, io faccio parte, difendo lì. Grazie, molto gentile, sì, guarda. Grazie. Intanto come ancora intruso macchina, quando trovi fuori, caro? Amigos, questo è il locale, amigos, questo è il locale, gira che bello, gira che bello. Sei in spagnolo, tu? Bisulito spagnolo, bisulito spagnolo. C'è una che, aspetta come si chiama, fa, che anni fa parlava dalla Spagna, e parlava un po' italiano. Non me lo ricordo, non mi viene il nome, capo. isole delle Canarie, che apparaci. Sì, Dio, è Pippo Muratore? Hai mai sentito Pippo Muratore della Catalogna? Mucho, abbiamo copiato anche a Isso, mucho, tre bien. Gli Vulcano, ascolti Pippo Muratore da Catalogna. Cappa, Elena, si chiama Elena, e quella mi trovavo dalle isole delle Canarie, non l'ho più sentita. C'è freddo, stanotte c'è umidità. Anche per me. Stia attento che intanto io dopo mi diverto con le mani e con i piedi. Lei va alla nana, stia tranquillo, che lo tratto bene io, Antonello. Nana non alza più. No. Sì, che adesso il microfono. Vabbè, non c'è problema, se sono preoccupati. Ok, stanno male, buonanotte a tutti. Statevi bene. A casa Manzano. Ehi, ciao. Signori, Fabietto ne approfitta dai a salutarvi, parte buon 144 la nuova parte, io me ne vado in QRT, salutoni Radio di Sole, salutoni Cipollina, a Pollicina voglio dire, e Antonio Grotti e Antonello, dai. QRT da parte mia. Ciao, ci si ascolta. Sono il minimo di viaggio che tra 5 minuti. Come minimo? Il minimo. Un salutone al suo paccetto oppure? Nel mio nome, mi ci sta anche il bulldozer. camionista? Certo, non ho la butto di noce. Tu l'ascolti meglio di me, appunto, Pinocchetto stazione del Moro. Avanti, Pinocchetto il Moro, Seccopi Barracuda, da Ossilandia. Lo sento molto basso. Avanti, il Moro, però buonasera. No, non lo copio, Gigi, non lo copio per niente. Io lo sento basso basso. No, io sento le spagnolette che stanno parlando moccia, direi, moccia, moccia. Ok, 3 minuti contati sono passati, sei più perfetto di un cronotec. Ciao, bulldozer, di rientro. Ehi, allora, faccio il rientro alla mia maison, là, con la pupa addormentata in macchina. Cappadelloggio, va bene, dai. Di nuovo saluto di bene, poi 144 quando l'ho fatto, ci si riascolta, ciao. Marco, ti stavo dicendo poco fa, me ne sono stato al posto di Pollicino, ho detto di Cipollina, io ho detto sotto al centro. Ah, è bene, è bene. Sbagliato anche prima, dai, salutando anche Daniela, tanto so che è in ascolto. Lei è sveglia, l'altra più piccola che ho aumentato. Fammi sentire la tua voce dopo tanto, falla sentire che non me la ricordo più, fammela ascoltare. Ciao Vulcano, ciao! Oh, fermo, tu stai bravo. Ciao, ciao, tutto bene? Tutto a posto, tutto bene, ciao Daniela, in realtà però non sentivo la tua voce. Ciao anch'io, non ho sentito ascoltare, ti ho sentito, tutto a posto? Tutto ok, dai, tutto roce, Dani. Grazie, grazie. E niente, cosa mi racconti di bello? Dimo, cosa ti racconto di bello, vuol dire? E così, dai, per aprire un discorso, tutto lì. Che caparroggio, dai. Ma invece com'è andata la... Siete andati a mangiare, a fare dove... No, la verità abbiamo mangiato, poi siamo andati da tutta l'altra parte, sì, quello sì. Positivo, positivo. Eia, eia, e io mi sono trattenuto, non so come mai, un po' stanotte a fare compagnia a questi po' di amici, dai. Mi sono trattenuto un po' stanotte. E anch'io la verità, quello sì, non sapevo cosa fare. Comunque sono io, mi... Gigi! Che fregato, Gigi! Oggi non è la Daniela, che è l'altro vero, la cucina è della mille di giro. Eia, eia. Gigi, sono sotto io, mi... devo mangiare tutto quanto. Guarda, non ti ho riconosciuto, sono la voce di merda. Sembra con Daniela. Fattatino, niente, Complimenti, complimenti. Ladies and gentlemen, the new first of the voice of the women is Antonello da Ossi. Dove stai andando? Dove stai andando? Antonio Grotte! mi sono dimenticato, ho cacciato molto probabilmente la fana. Ti sei dimenticato la fana? No, troppo ascolto, guarda che ci dovrebbe essere vista. No, non ti ho copiato, cos'è che ti sei dimenticato a casa? No. Ma sa su! Sembra affatto di mentire, ragazzi. Non lo so, mi dico solo, ma se lo butto meglio, ti preoccupo. Ascolta, tanto, ma dov'è che stai andando adesso? Adesso fare inizio. Guarda, wow, non ho capito, non gli chiedo neanche cosa ha detto. Fai la cortesia, fai che non lo si frega a te. Ma che, cosa ha detto? No, la bella domanda, se no potrà mia pure. Quanto ne è? Sono arrivato, adesso sono arrivato a casa, però credi no. Già va bene, Antun. Beh, è da poco che sei distratto, ma ancora non rientri. Antun, è rientrato, sì? No, fai la cortesia, Gigi, dimmi, se lo copia Antonio, vedere in che zona si trova. Si trova Antonio, andiamo a casa sua, mi pare che ha detto. No, chiediglielo tu, fai la cortesia. Dove si trova lui? Devo dirgli dove si trova? Antonio ha detto dove ti trovi. Papa Roger, io sono in Viale Italia. Ho capito, Antonio, ma cerca di capire. Gigi ti ha fatto una domanda, no? Adesso dammi tu la risposta in modo che lui poi ti risponda. Non hai capito, Antu? No, non me lo posso permettere, è troppo grosso. Hai capito, Gigi, non ha funzionato, è a paura di te. No, ho capito cosa deve fare, cosa deve dire, non l'ho capito. No, è tutto un giro strano. Come ti posso spiegare? No, niente, ti volevo fare uno scherzo, solo che ha paura, dice, perché sei troppo grosso. Sì, guarda, ce l'ha vista Leotrino, ce l'ha vista brutta una volta. Ma bruttissima, se l'ha vista brutta, ma brutta veramente. E poi, dopo un po' di tempo, è venuto, mi ha abbracciato chiedendomi scusa. Ma mi è venuto subito incontro a abbracciarmi, a chiedermi scusa. Perché il giorno che mi ha fatto incantare veramente, se lo trovavo è che non me lo sono trovato di fronte, che mi è sfuggito, ma se lo trovavo era un cavolo di suo il giorno. Però perché non glielo chiedi tu invece la linea? Non lo chiedo a Falchetto, già Falchetto, chiedilo tu, fa la cortesia. Che cosa? A vedere dove si trova Antonio, in che punto si trova durante il suo lungo viaggio. Dove ti trovi Antonio? Dove ti trovi Antonio? Dove ti trovi? Dici che sono al policlinico, di smettermela. Dici che faccia da bravo Antonello Silandia, che faccia da bravo, però che faccia da bravo. Copiato Antonello. E io ho copiato, sì. Devi fare da bravo così trova al policlinico. Esatto. Capa di Roger, vi vedo in cala, quindi Antonio il Grode vi super cordializza a tutti, Gigino Vulcano, Antonio Falchetto e Antonella d'Ausilandia, e vado in QRT, dai. Rimango in QRX per il finale e rilancio Falchetto. Ciao ciao. Via. Ciao Grode. Saluto le belli, buon ritiro te lo fai, buon 144 e buon tutto. Salutami la tua bollicina e niente, dai, e ci si riascolta, vai. Via, ciao Anto, buonanotte sugli d'oro. Buonanotte a te e compagnia e bollicina, ciao. Ciao ciao. Ciao a tutti. Buonanotte. Buonanotte Policina, buonanotte Grode, notte Antonio, mi piace il Grode, buonanotte, alle prossime. Buonanotte a tutti. Beh, andiamo, andiamo a quelle carci, io perché non c'ho sonno io? Signori, io vi saluto. Dai, ci si ascolta che domani mi alzare presto, eh. dato la buonanotte con tutto, Marchetto, chiude le trasmissioni. Ciao Gigi, ciao Radio di Sole, ciao Antonello, ci siete ascolto in televisione, ciao. Buonanotte. Buonanotte. Dai ragazzoni, dai, vi saluto pure io, dai. Ho visto che se ne è alzata la mia 50 a fumare, vuol dire che anche lì non ho voglia di dormire stanotte. E allora fa compagnia? No, no, no, perché poi da 50 è diventata anche 60 questo. 70, 80, che va a 100? No, 60 sì, ma 70 no, è chiaro. Buonanotte. Yeah, buonanotte, ciao Tomè. Ma che sei bravo. Sei pisce cocca di... Che franchetto lì? Che sei un vulcano, Sono il vulcano. Sì. Buonanotte, Gigi, vulcano.